Cari amici, è giusto avere attenzione e precauzione e seguire le indicazioni delle autorità sanitarie per il coronavirus. Ma quello che non è accettabile è il terrorismo psicologico. È lo sciacallaggio che alcuni fanno per trovare soltanto una scusa per l'odio, l'esclusione. Invece noi siamo vicini alla comunità cinese in questa battaglia comune. Allora, se da niente paura? Niente. Grazie. Cosa succede giù in città? Ma chi lo sa? Ma chi lo sa? Quel che di bello c'è in città lo trovi sulla punta. La trapunta. Ehi, buonasera a tutti e tutte, bentornati e bentornate sull'altra puntata. State ascoltando Radio Wombat, bravissimi, fate proprio bene. Ciao, avete sentito, ciao caro Grippo. Avete sentito il compagno Dario che qua giusto era, questa era una cosa un po' vecchia, abbiamo provato a passarla. Però lui avanti, esatto, aveva già previsto l'arrivo del coronavirus in Italia e quindi preoccupatissimo è andato subito ad abbracciare un cinese, chissà, un imprenditore cinese per la precisione. Sì, no, con quali intenti? Sì, sempre insomma, se l'hai scelto a modino. Certo, ecco, certo, certo. Non a casaccio, insomma. Sì, sì, ma infatti ha previsto tutto, la grande crisi della monocultura fiorentina. Ma infatti sul turismo aveva anche previsto, non lo so, Milano, no, che è arrivata con imprenditori comunque finanziari, la certo. No, effettivamente è così, è arrivata così il coronavirus, quindi lui è andato giustamente ad abbracciare per l'appunto un imprenditore fratese, per dire che non bisogna avere paura nemmeno di abbracciare gli imprenditori. Esatto. E ora la sua preoccupazione è, diciamo, giustificata da un certo punto di vista, perché effettivamente il mercato cinese in Italia è molto grosso. A Firenze vediamo orde di turisti cinesi che arrivavano, si può dire, veramente tutti i giorni, a centinaia e centinaia. Sicuramente con questa nuova epidemia, con questa nuova paura, tutti non verranno. Sono morti questi due ottantenni, insomma, un pochino preoccupanti. Sì, io guarda, ho aperto poco fa il giornale, sei morti. In tutto, però tutti vecchi alla fine, cioè. Sei morti. Buono, sì. Io oggi non l'ho aperto, però ma quasi tutti sopra i 70 anni, cioè, quindi ma vabbè, quindi bene, insomma. Quindi cinismo su Radio Uomo. Scusate. Insomma, Ricobaldo, che cos'è che si combina oggi? Allora, oggi naturalmente, come tutti i lunedì, avremo tra pochissimo una rassegna degli eventi che sono stati caricati sulla punta.org, la nostra fantastica piattaforma autogestita per la promozione di eventi dagli spazi liberati e non. Ma non ci fermiamo lì, perché come di consueto avremo due approfondimenti, anzi probabilmente tre, di cui uno sarà su un libro, Trap, storie distopiche di un futuro assente, che sarà presentato venerdì presso gli spazi della polveriera. Avremo poi si torna di là d'Arno, sì, come anche quello abbastanza di consueto, con abbiamo compagni e compagne dell'occupazione Deve del Leone, che ci parleranno di quanto succederà martedì grasso, per l'esattezza, domani, per chi ci sta ascoltando in diretta, con una parata in Oltrarno da Piazza Tasso fino a Giardino dei Nidiaci. Magari ci sarà anche l'occasione per aggiornare un po' tutto il percorso, il progetto della stanzina, della riprogettazione di Piazza Tasso e del più ampio del quartiere. Ma non ci fermiamo qua, perché mercoledì vi sarà un'assemblea presso la Polveriera Spazio Comune per fronteggiare, discutere, cercare una soluzione collettiva al problema che vive il chiostro di Santa Pollonia, il loggiato, ma anche il quartiere più in generale. Quindi sarà in verità si cercherà di dare una veduta più di ampio respiro a un tema che spesso viene estremamente semplificato e viene osservato solamente nelle sue, come si può dire, non direi quisquilie, però ecco, la punta dell'iceberg si vede solo quella. Nelle sue manifestazioni più evidenti, esatto, diciamo. Più evidenti, più populiste, più quelle che più fanno presa sull'opinione pubblica. Però in verità dietro c'è un mondo che raramente viene esplorato, raramente si va a chiederci il perché di tutto questo. E presso la polveriera sarà fatto questo discorso in un'assemblea pubblica aperta. È stato diffuso un volantino sia nel quartiere che sui social, ci è stato mandato un comunicato stampa, vi saranno dei rappresentanti anche delle istituzioni, vi sarà Tommaso Fattori che è un consigliere regionale, vi sarà Ridolfi che è un consigliere comunale, forse qualche altro consigliere di quartiere, sì, forse qualche altro consigliere di quartiere, e vi saranno inoltre degli operatori specializzati della cooperativa CAT, che è una cooperativa che si occupa, fra le altre cose, di riduzione del danno attraverso vari progetti attivi in città. Si occupa veramente di tante cose la CAT. Vi sarà una psicologa, vi sarà un Diletta Vicchiarelli, un'operatrice sociale, anche urbanista, e quindi sarà veramente una discussione che cercherà un po' di andare a esaurire, no? Quegli argomenti che riguardano il famoso degrado tanto millantato dal nostro compagno Dario Nenardella. Perché questo? Perché da parte della polveriera Spazio Comune sicuramente c'è un po' la sofferenza di dover affrontare una questione così annosa, e quindi affrontare nuovamente una questione così impegnativa, che è già stata lungamente dibattuta, ma senza mai trovare realmente poi uno sbocco e delle soluzioni. E quindi l'intento è quello di allargare il cerchio, e cioè andare magari a cercare quelle cause che portano, c'è chi lo chiama degrado, io ad esempio preferisco chiamarlo marginalità sociale, no? Sì, il disagio magari. Sì, la marginalità è una cosa che abbraccia tante sfere. Abbraccia tante anche classi sociali, no, non per forza nei tempi contemporanei. Il disagio sociale è una cosa delle fasce sociali basse, e è tutto mescolato all'abuso e allo spaccio di sostanze. Tra l'altro, forse magari ne potremo parlare anche con se gli diamo un microfono, compagni di Via del Leone, perché anche loro in Piazza Tasso stanno affrontando. Ciao intanto. Ciao. E là. Allora non è proprio lo stesso discorso, voglio dire, lo spazio della polveriera ha una conformazione un po' diversa rispetto a quella di Piazza Tasso, anche la frequentazione probabilmente è un po' diversa, però diciamo che si assomigliano. Quindi voi come vi siete posti un po' di fronte a questo problema? Come vi state ponendo? Che cosa state cercando di fare? E come vi siete mossi? Allora, noi diciamo come comitato di quartiere, il comitato di quartiere che è nato questo settembre, ci stiamo pensando a Piazza Tasso in generale innanzitutto, perché Piazza Tasso, nonostante appunto le sue contraddizioni, che sono contraddizioni che possono nascere quando si ha a che fare con la marginalità, lì il fatto è che c'è lì accanto all'albergo popolare e in generale molti ragazzi del quartiere ci passano anche la giornata, e proprio nonostante, o forse grazie a queste contraddizioni, Piazza Tasso è una piazza molto viva e vissuta, e diciamo una delle ultime piazze a Firenze purtroppo dove ancora si può respirare un clima non danneggiato dal turismo, diciamola sì, così. Sono abbastanza d'accordo su questa cosa. Esatto. Quindi è partito un progetto insieme agli altri abitanti del quartiere, abbiamo chiamato una serie di eventi, assemblee pubbliche, discussioni pubbliche, passeggiate pubbliche, tutto quello che si poteva fare per parlare di come poter prendere Piazza Tasso e renderla ancora più bella, ancora migliore, se possibile. E tra le varie, i vari problemi insomma che sono sorti, che sono venuti fuori rispetto alla piazza, uno di questi era sicuramente lo spaccio. In Piazza Tasso, appunto, essendo una piazza bene o male non controllata dalle misure repressive, almeno per ora, speriamo che continuerà a essere così, e per tutta un'altra serie di motivi su cui non mi dilungo, è sì un punto in cui a San Frediano c'è effettivamente lo spaccio. quando noi abbiamo proprio noi, con, quando dico noi intendo tutti quelli che gli abitanti e le abitanti che hanno partecipato alle assemblee, non intendo solo noi di Via del Leone. Quindi noi abbiamo fatto proprio un progetto con una mappa, e in questa mappa appunto uno riguarda Piazza Tasso e varie modificazioni e sì, pensieri così. Ne abbiamo parlato, tra l'altro. Esatto, quella. E uno di quei punti è proprio lo spaccio. Noi in generale, questo come occupazione Via del Leone, pensiamo ovviamente che lo spaccio non possa essere combattuto con misure repressive o appunto, come dicevi te prima, lasciando sulla superficialità il piano di discussione, diciamo, ma va affrontato in profondità, e sicuramente va affrontato anche creando una dimensione alternativa alla socialità che ruota invece attorno allo spaccio, al consumo e più che altro all'abuso delle sostanze. Quindi questo è il nostro pensiero. Come nel punto proprio della mappa che parla di spaccio, la soluzione che ci siamo proposti è creare un presidio permanente di operatori sociali, proprio dalla CAT, come dicevi prima. Sì, no, ma infatti per questo ci sono delle similitudini fra le problematiche che poi anche nelle proposte che sono state fatte per la risoluzione. Certo, anche nel discorso prima si notava, no? Cioè, anche soltanto il discorso repressivo, cioè, è molto delicato, molto difficile sempre riuscire a spiegare, ecco, che non è con la repressione, non è con una retata che si risolve il problema dello spaccio, ecco. Esatto, per quanto la risposta del quartiere, almeno nelle assemblee pubbliche in cui chiaramente ci viene un certo tipo di soggetti, cioè comunque, però è stata buona rispetto a questo, nel senso che nessuno ha proposto una cosa del genere, ma anzi tutte le critiche rispetto alle misure repressive sono state ben accolte, e è stato ben accolta la proposta di un presidio permanente appunto di operatori di strada. No, è quello. Io ho seguito un po' le assemblee della Polveriera Spazio Comune negli ultimi tempi, è un po' fondamentalmente la linea che sta cercando di prendere anche lo spazio di Santa Pollonia, se non che a me non so, mi colpisce particolarmente questo binomio marginalità e illegalità, no? Sono due cose che spesso vanno a braccetto, quasi sempre vanno a braccetto, e la domanda è: ma perché vanno a braccetto una marginalità e una illegalità? E questa è la domanda vera. Quali sono i meccanismi che portano le persone a essere sia emarginate che poi inserite in dei circuiti di illegalità? E quindi le risposte anche che si evitano, fa un po' un piccolo spoiler a tutti e tutte, però la risposta che si dà allo spazio della polveriera è che sicuramente mancano delle soluzioni sotto tanti punti di vista. Nel caso del chiostro di Santa Pollonia, cioè si può dire un chiostro chiuso, ma si può anche considerare, forse è più veritiero come considerazione, una piazza a tutti gli effetti protetta all'interno di un quartiere che invece ha subito dei percorsi abbastanza un po' diversi rispetto a quelli di San Frediano. È stata una fortissima gentrificazione in alcune zone, quelle più limitrofe alla stazione e a Piazza del Duomo, mentre altre zone, quindi fondamentalmente da Via Guelfa in su, oltre che essere vittime di un traffico urbano esagerato passandoci tutti i bus, è anche stata un po' lasciata a se stessa, il meccanismo tipico della gentrificazione. Quindi fondamentalmente poi marginalità, illegalità, la mancanza principale è quella di un lavoro stabile. Le politiche neoliberiste soprattutto hanno minato talmente tanto la sicurezza del lavoro che poi di fatto quelli che si trovano sono lavori da riders, ma capite bene che magari una persona che ha bisogno di rinnovare un documento con un lavoro da rider, sicuramente questa cosa non ci riesce. E quindi fondamentalmente i punti sui quali sarà posta l'attenzione sarà questa: una politica del lavoro adeguata, abbozzarla con la repressione che colpisce le piazze e le strade fiorentine. Ne vediamo benissimo gli effetti, la polveriera ne ha visto benissimo gli effetti. Dopo ogni retata svolta tra la Fortezza e Piazza Indipendenza è arrivata una quantità di persone nell'oggiato che cercavano riparo, che cercavano protezione. La terza questione è il fatto che non è possibile riempire le carceri con centinaia, direi migliaia di detenuti per reati minori, quale lo spaccio di sostanze leggere. cosa che in tanti paesi è già è stata affrontata, è stata sono stati anche raggiunti dei buoni risultati. Questo non vuol dire che la polveriera pensi a mettere sul mercato le droghe leggere, ma magari a una depenalizzazione, a una liberalizzazione, quello sì. Quindi, per sintetizzare, come dicevo prima, questa campagna che si chiama Spaccio e Emarginazione in Santa Pollonia, che cosa fare, che è un'assemblea che andrà, che si vedrà mercoledì 26 alle 18 presso la Polveriera Spazio Comune, questi più o meno sono i punti sui quali si batterà. Quindi tutti e tutte invitate questo mercoledì alle 18. Nel frattempo il buon Grippo ci manda un pezzo, così smorziamo un po' la pesantezza di questi temi. Insomma, smorziamo. Cosa ci mandi? Ma è un testo abbastanza impegnato in realtà. Sì, c'est en français. Ed è di Tiken Jaffa Coli e si intitola Il fosse levé. E quindi bisogna attivarsi, insomma, dai, bisogna alzarsi. Attevemosi. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut s'élever, élever, élever pour changer tout ça. On doit s'élever, élever, élever pour changer tout ça. Il était une fois un continent pris en otage. Qui se demande pourquoi ne peut pas sortir de sa cage. Il faut s'élever, élever, élever pour changer tout ça. On doit s'élever, élever, élever pour changer tout ça. On cherche le bonheur dans les cartes. On cherche mais on ne le trouve pas. Pourquoi faut-il toujours qu'on parte alors que l'Eldorado est là? On veut voler de nos propres ailes. C'était le rêve de nos aïeux. Elle est pas si loin l'étincelle. Il suffit qu'on ouvre les yeux. Il faut s'élever, élever, élever pour changer tout ça. On doit s'élever, élever, élever pour changer tout ça. L'Afrique à notre place. Je dis personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut s'élever, élever, élever pour changer tout ça. On doit s'élever, élever, élever pour changer tout ça. N'ayons pas peur de l'ouvrage, les tours reprendra zéro. Pas peur, tournons la page pour construire un monde nouveau. Il faut s'élever, élever, élever pour changer tout ça. On doit s'élever, élever, élever pour changer tout ça. Il faut s'élever, élever, élever pour changer tout ça. On doit s'élever. Change l'Afrique à notre place. Je dis personne ne viendra. Change l'Afrique à notre place. Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore. Rieccoci. Ok, ma la sigla. La sigla di che? Della rassegna eventi. Bisogna andare subito con la rassegna eventi. Certo, dai, con la rassegna eventi. Sì, ci andiamo, ci andiamo. Allora, non perdiamo tempo nelle zone del allora Wombat. Andiamo alla rassegna eventi. Classica rassegna eventi da... Ecco, c'è un ospite che ci dice che è pronto per ricevere la nostra telefonata, ma dovrà aspettare ancora un pochino. E perché ancora noi abbiamo da fare la rassegna eventi dalla Funta.org. Ma quanti eventi ci sono sulla Funta? Da quando è comparsa questa piattaforma in città ci siamo tutti e tutte stupite per il fatto che non ci eravamo accorti di quanto è viva Firenze. Circa ogni settimana si trovano una quindicina di eventi negli spazi liberati, vuol dire praticamente due al giorno, qualche settimana di meno, qualche settimana di più. Senza contare però quelli che ci scordiamo noi senza di caricare. Senza dimenticare, sì, senza contare quelli che o noi ci scordiamo di dimenticare oppure anche gli altri spazi circa questo. Sì, noi dei nostri volevo noi caricare. Dei nostri, ok, sì, va buono. Ok, va buono. Si va con buono? La sigla. Dai, ora rassegna eventi, va. Via. La trapunta. Eventi resistenti dalla punta.org. Classica rassegna eventi del lunedì, ma in verità di tutta la settimana. Si inizia dal lunedì 17 febbraio, dal lunedì 17 febbraio a giovedì 12 marzo, presso il Next Emerson in via di Bellagio 15 e presso la Polveriera in via di Santa Reparata, vi è la raccolta beni di prima necessità per il progetto Beyond the Line di No Name Kitchen. I dettagli si trovano su nonamekitchen.org. Si tratta di un ONG che va a portare supporto ai migranti, ai ragazzi migranti in attesa di un attimo di fortuna per provare a riprovare a incamminarsi verso l'Europa. Questa ONG se ne va nei Balcani e sul sito potete trovare la lista dei materiali che servono. I luoghi di raccolta sono, come detto, il CSA Next Emerson in via di Bellagio il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 21.30, il martedì invece dalle 18 alle 23 e presso la Polveriera in via di Santa Reparata 12 il lunedì dalle 18.30 alle 19.30. Ripeto, questa è la raccolta materiali per No Name Kitchen. Stati di agitazione, territori, autogoverno, confederalismo. È questo il numero della nuova rivista di Zapruder che sta per essere presentata dalle 17 alle 21 oggi in Piazza Brunelleschi, organizzata da studenti di sinistra. Viene presentato il nuovo numero della rivista assieme a Tommaso Frangioni, curatore di questo numero, e allo storico Matteo Albanese. Ci saranno aggiornamenti e un dibattito sulla situazione in Siria del Nord-Est assieme a Paolo Pachino, combattente YPG, e Cecilia Soldino, volontaria della Mezza Luna Curda e militante di Rise Up for Rojava, dalle 17 in piazza Brunelleschi. Andando poi a martedì 25 febbraio dalle ore 15 presso Piazza Tasso vi sarà la parata di carnevale dell'Oltrarno. Il ritrovo, come detto, è in Piazza Tasso alle ore 15, poi ci sarà da aspettare la banda dei Fiati Sprecati e alle 17 vi sarà la partenza della parata in direzione Giardino dei Nidiaci, oppure detto anche Giardino dell'Ardiglione. Alle 18 invece al Giardino vi sarà l'orchestra trasversale e la premiazione del costume più originale. Merenda per tutti. Questo naturalmente è importante. Il Giardino dei Nidiaci sarà chiuso fino all'arrivo della parata, quindi non dimenticatevi di recarvi in Piazza Tasso dalle 15. Mercoledì 26 febbraio dalle 18 presso la Polveriera Spazio Comune in via Santa Reparata, spaccio ed emarginazione in Santa Pollonia. Cosa fare? Un'assemblea pubblica chiamata dalla Polveriera assieme a Tommaso Fattori, consigliere regionale, e Giorgio Ridolfi, consigliere di quartiere, i responsabili della CAT, cooperativa sociale che si occupa di riduzione del danno e non solo, e Diletta Vecchiarelli, operatrice sociale. Ne parliamo in questa assemblea pubblica chiamata per questo mercoledì alle 18 negli spazi di Santa Pollonia. E sempre mercoledì 26 febbraio, dalle 20.30 fino alle 23, presso l'Ateneo Libertario Fiorentino in Borgo Pinti 50R, abbiamo la cena sociale di finanziamento e o autofinanziamento. Questa è la sede dell'Ateneo Libertario, vi è un menù favoloso, assaggi di pecorino e miele, pasta alla verza, crocche di patate e zafferano al farro, verdure saltate di stagione, schiacciata alla fiorentina con assaggio di torta allo zafferano, vino buono e pane di Mondeggi. Il contributo è di 13 euro e bisogna prenotare Ateneo Libertario Firenze @inventati.org. Poi sarà naturalmente possibile acquistare torta allo zafferano prodotte da Mondeggi. A quanto ho capito, tutti questi prodotti vengono dalla fattoria senza padroni. Quindi cena sociale di autofinanziamento all'Ateneo Libertario il 26 di febbraio dalle 20:30. Mercoledì 26 febbraio dalle 21:30 presso gli spazi dell'ex Emerson in via di Bellagio a Firenze, il Next Emerson è lieto di presentarvi Madame et Messieurs, i francesi Le Singe Blanc e Pavel V. o Senk, chissà. Le Singe Blanc sono tre voci, due bassi e una batteria, e questo è il marchio di fabbrica dell'ormai storico gruppo rock attivo da 20 anni, che fonde mat rock, noise rock, foglie ritmiche e testi oscuri. Melodie indimenticabili per un suono che i fanatici degli anni 90 non possono perdersi. Pavel V invece viene da Amiens ed è un musicista che gravita attorno alla comunità noise da più di 10 anni. Il concerto è infrasettimanale, inizierà puntuale alle 22, quindi non fate scherzi sugli orari all'ex Emerson in via di Bellagio mercoledì dalle 21:30. E andando a giovedì 27 febbraio, la mattina dalle 11:30 fino alle 13, vi sarà un'assemblea studentesca contro l'innalzamento delle tasse. Si svolgerà al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, in via Madonna del Piano 6, e è un'assemblea che appunto andrà a dibattere sull'aumento delle tasse del circa il 12% delle tasse universitarie per raccattare circa 6 milioni di euro. Che cosa fare, che cosa non fare, che cosa vuole fare l'Unifice, lo spiegano gli studenti di sinistra. Infatti, se vuoi saperne di più devi andare a, o ti vai a vedere l'evento sulla punta, oppure puoi seguire l'hashtag @PalpUnifiction. Vi è anche un questionario per dirci che cosa ne pensate e trovate il link sulla punta. Attenzione, è molto importante questa assemblea giovedì 27 febbraio alle 11:30 al Polo Scientifico di Sesto. Sempre giovedì 27 febbraio, ma il pomeriggio alle 18, presso lo studentato gestito PDM in via del Ponte di Mezzo, viene presentata La Sfida Catalana, libro di Marco Santopadre, curato da Giacomo Marchetti. Il sottotitolo è Cronaca di una rivoluzione incompiuta. L'autore Santopadre parlerà della Sfida Catalana, ho avuto anche il piacere di leggerlo. Questo libro infatti vi strainvito a partecipare. Ci sarà Santopadre, giornalista attualmente di contropiano, esperto di politica internazionale e movimenti di liberazione nazionale. A seguire apericena con pietanze catalane, birrette e stuzzichini a prezzi popolari. Ripeto, giovedì 27 febbraio dalle 18 in PDM. E sempre giovedì 27 febbraio, praticamente in contemporanea, dalle 18:30 abbiamo l'appuntamento con la consueta Critical Mass fiorentina, come ogni ultimo giovedì del mese. Cos'è la Critical Mass? Una, loro si definiscono una coincidenza non organizzata in bici per fondamentalmente riappropriarsi degli spazi e delle strade. Ogni ultimo giovedì del mese, l'appuntamento alle 18:30 con la partenza alle 19:30 da Piazza Santissima Annunziata, non mancate. Venerdì 28 febbraio dalle 18:30 presso la polveriera Spazio Comune in via di Santa Reparata viene presentato il libro Trap, storie distopiche di un futuro assente, pubblicato da Agenzia X. L'autore è User from PT, Pistoia. Ci sarà l'autore che traccia il contesto di degrado delle metropoli meridionali degli USA dove è nata la trap. Un viaggio fra le sue manifestazioni più popolari e un'analisi sul perché siamo arrivati in pochi anni all'esplosione di un caso mondiale che ha saputo travolgere anche la scena italiana. Dalle 20:30 presentazione, poi cena a prezzi popolari e a seguire si prova. Microfoni aperti e chi vuole esibirsi è il benvenuto. Questo giovedì presso la polveriera. E venerdì 28 febbraio dalle 23 fino a mezzanotte, ma secondo me anche di più, presso il plesso didattico in Viale Morgagni vi sarà il Carnival Party degli studenti di sinistra, oramai classico appuntamento annuale in quel del carnevale. Tanta musica, ingresso libero naturalmente, birrette fresche, bibite, ci sarà un'apertura a cura dei Fiati Sprecati, che è una banda popolare di strada, per poi a seguire DJ Millennials, che fa dance, electro house e trash, direttamente dalla capitale. Carnival Party, venerdì 28 febbraio, dalle 23 fino a tarda notte, al plesso di Morgagni. Venerdì 28 febbraio dalle 23.30 presso il CPA in via di Villa Magna ritorna la serata in doppia H del CPA. Questa volta a sfondare il palco della sala concerti saranno Don Diego e Macro Marco, che presenteranno il loro nuovo album Disordinata Armonia. Ad aprire le danze DJ Muffa e Tony Mannaia e Circolo Vizioso. Dalle 21 cena popolare, dalle 23 inizio concerti B-Boys e B-Girls You Are Welcome presso il CPA questo venerdì dalle 23.30. E sabato 29 febbraio in Piazza Tasso dalle 10 alle 19 vi sarà una giornata di scambio semi a cura del Genio Clandestino Firenze, Jérôme Larons. Ripeto, in Piazza Tasso portate i vostri semi, che sicuramente troverete altre persone con tanti scambi da fare. Siamo a sabato 29 febbraio dalle 17.30 presso il cantiere sociale Camillo Sianfuegos in via Chiella a Campi Bisenzio. Sosteniamo i lavoratori in lotta, in particolare i lavoratori della GKN. Infatti il K100 e il collettivo di fabbrica GKN organizzano una serata di incontro, confronto e sostegno fra i lavoratori. Dalle 18 viene presentato il libro Quando la Fiat parlava argentino, storia di operai senza eroi, con l'autore Camillo Robertini. A seguire dibattito, dalle 20.30 cena in sostegno della Cassa di Resistenza dei lavoratori pratesi che sono stati colpiti dal decreto Salvini con multe per 4.000 euro l'uno. Dalle 23 concerto live con il Banchetto Band, cover band di D'André, presso il centro sociale Camillo Sianfuegos in via Chiella a Campi. Sempre sabato 29 febbraio dalle 18 presso l'occupazione di Via del Leone avremo Aperi Psiche, Matti da slegare, a cura del collettivo Psiche. E è il secondo appuntamento di questo ciclo e dalle 18 è tutta una discussione sulla legge 180 del 1978, la cosiddetta legge Basaglia, su come viene oppure non viene applicata. A seguire naturalmente, vi è un ospite anche fra l'altro rilevante, un psichiatra Vito Danza, che se non mi sbaglio è responsabile di un SPDC qua in Toscana, e a seguire naturalmente aperitivo, ripeto, sabato 29 febbraio dalle 18 all'occupazione di Via del Leone. Sabato 29 febbraio invece dalle 21.30 presso l'ex Emerson in via di Bellagio, spettacolo teatrale, festa di matrimonio della figlia del presidente, un adattamento di Joan Miorga a cura della compagnia del Teatro Rossi Aperto di Pisa. Ripeto, questo sabato dalle 21.30 all'ex Emerson in via di Bellagio. E la rassegna finisce qua, ci sentiamo settimana prossima. Nel frattempo non lasciate le frequenze di Radio Wombat, abbiamo approfondimenti con i compagni e le compagne di Via del Leone e con User from Pistoia riguardo a Trap, storie distopiche di un futuro assente. A tra poco. 1, 2, 3, 4. La Trapunta, eventi resistenti dalla punta.org. Anche le foche bevono Radio Wombat. E Ebbene, il primo approfondimento della trapunta di oggi, 24 febbraio 2020. Abbiamo compagni e compagne dell'occupazione di Via del Leone. Abbiamo già sentito la loro voce un po'. Abbiamo già un po' argomentato la questione di Piazza Tasso, però ora sono qua di persona tutti e tutte per noi. Intanto, il carnevale. Partiamo da lì. Sì. Ciao. Com'è che è venuta fuori questa idea del carnevale? Questa idea del carnevale, diciamo che da parte nostra, ovvero noi ragazzi di Via del Leone, è venuta anche in seguito al carnevale che è stato fatto l'anno scorso con l'assemblea di Resistenze, organizzato da Resistenze, e diciamo che noi ci siamo messi molto dentro a questa cosa, e mentre costruivamo il carro, che era bellissimo, che lo costruivamo, diciamo, un po' per strada, per questione di spazi, così la gente che passava era entusiasta e ci chiedeva dov'era questo carnevale, così, e quindi un po' ci venne in mente di farne uno in quartiere, soprattutto vista la risposta. E poi quest'anno il carnevale un po' ci è venuto incontro, perché da parte di varie associazioni del quartiere, tra cui Amici dei Nidiaci e la Scuola Calcio delle Boschi, e così è nata questa iniziativa di fare per l'appunto il carnevale di quartiere. E noi, come realtà del quartiere, per noi è anche stata un'occasione, no, un po' per tornare un po' bambini anche noi, a metterci, no, certo, a fare queste cose, però dandogli un contenuto anche politico, comunque legato alla festività, insomma, un carnevale, quindi faremo questa parata. Bene, fra l'altro, cioè, non sono poche le interazioni che l'occupazione di Via del Leone, anche attraverso il laboratorio di Laddarno, sta avendo col quartiere. Si può dire che state lavorando duramente. Si vedono gli effetti di questo lavoro? Sì, gli effetti si vedono, soprattutto ci se ne accorge soprattutto quando il lavoro, diciamo, proprio nella sua mole, è quasi, ti viene spontaneo, ti viene facile. E perché? Perché c'è la partecipazione degli abitanti del quartiere, cioè c'è un riscontro, e quindi tutto viene più facile, perché c'è già, diciamo, non so come dire, come se tu ci avessi una porta spalancata, no? Sì. Io ero, fra l'altro, ero presente alla presentazione di, non era settimana scorsa, era quella ancora prima, era venerdì 17 se non mi sbaglio, venerdì 14 se non mi sbaglio, quando è stato presentato il progetto di Piazza Tasso, sviluppato dal laboratorio insieme a voi Leone, insieme al collettivo 404. C'era un bel po' di gente, fra l'altro è stato veramente molto interessante, un'assemblea molto partecipata. Io penso che lo possiate reputare un successo, ecco, diciamo, il percorso del laboratorio fino ad oggi. Quello che volevo chiedere è riguardo alla stanzina, perché abbiamo un po' seguito tutta la diatriba, stanzina aperta, stanzina chiusa, lo sguanci, il quartiere, via discorrendo. A che punto siamo? Con la stanzina siamo al punto per cui, diciamo, anche lunedì 17 febbraio, per l'appunto, abbiamo fatto un'assemblea di quartiere all'interno del Giardino dei Nidiaci, e sempre con le varie associazioni, tra cui c'era San Frediano Calcio, la CAT, Fuori Binario, anche i Bianchi c'erano di Santo Spirito, comunque varie associazioni, gli Amici dei Nidiaci, e si è parlato per l'appunto della questione della stanzina. E il progetto ad oggi è chiusa? Ad oggi è chiusa. E diciamo le voci da parte dell'amministrazione sull'apertura della stanzina erano più per la pressione dal basso, che poi appena è calata, sì, naturalmente tutto è andato nel dimenticatoio. Noi comunque stiamo pressando, stiamo facendo incontri con i consiglieri, e la stanzina, tra l'altro, è anche parte del progetto di Piazza Tasso, però è anche un progetto a sé, e il progetto è quello di, per l'appunto, renderlo insieme a tutto l'immobile un bene comune. Ecco, tutto l'immobile, che giusto per dirlo, per diffonderlo, ospita, oltre alla stanzina abbandonata da ormai più di 3 anni, anche la sede e la redazione di Fuori Binario. Per chi non lo sapesse, Fuori Binario è un giornale di strada, scritto, stampato e diffuso principalmente da Senza Tetto, ma non solo, che ci sono, tra l'altro ci sono anche ci sono stati negli ultimi numeri anche degli articoli di Radio Wombat proprio provenienti delle interviste da Radio Contato. È una voce indipendente che sta nelle strade fiorentine, quindi insomma sicuramente va tutelata. Vive anche un po' di problemi economici perché naturalmente sì. Molto si basa sull'attività volontaria, sull'attivismo delle persone, e quindi sicuramente è anche una realtà che va supportata. C'è una campagna abbonamenti che è stata lanciata da poco, sì. E comunque si può trovare più o meno in tutte le piazze, spesso ai mercati si trovano persone con il cartellino che vendono fuori binario. Comunque la stanzina, dicevamo. Sì, il progetto era per l'appunto quello di farla diventare un bene comune. Perché? Perché di fatto, cioè, farla diventare per l'amministrazione, insomma, poiché la stanzina dei bambini, da che io ne ho memoria, io in quartiere ci sono nato e cresciuto, da che io ne ho memoria è sempre stata un bene comune, detto, diciamo, non secondo... non bene comune inteso come per l'appunto permessi e cose così, ma un bene comune perché è sempre stata del quartiere, è sempre stata vissuta da soprattutto anziani e bambini del quartiere. E quindi secondo, cioè, allora voi state scegliendo questa linea qua, quindi sì. Al di là poi Via del Leone è una questione diversa, è un'occupazione, però per la stanzina la forma del bene comune, perché avete sì. scelto questa? Abbiamo scelto questa perché, diciamo, è la forma che vediamo più possibile per liberare questo spazio e darlo di fatto agli abitanti che lo necessitano. Perché per l'appunto lunedì, nell'assemblea che c'è stata, lunedì 17 febbraio, c'è stato un riscontro molto positivo e c'è stata anche una vasta, diciamo... quantità di proposte da parte delle varie associazioni, da parte di anche solo di singoli, cioè non per forza le associazioni, per l'appunto il bene comune permette sì che la gestione non sia sia totalmente orizzontale, cioè il comune all'interno di questa della gestione di questo bene comune, perché ne è partecipante, però partecipa come singolo, e quindi anche un singolo o una qualsiasi associazione all'interno della gestione di questo bene comune parteciperebbe come singolo. Ora, ancora questa cosa è ancora un po' vaga nella sì, legislazione sì. italiana, nel senso che è in via di definizione, però effettivamente diciamo che diciamo la definizione di bene comune cerca di trovare un soggetto che non sia né pubblico né privato, perché abbiamo visto quali sono le conseguenze di affidare i beni pubblici ai privati, sì, e abbiamo sì. visto anche bene qual è l'atteggiamento delle istituzioni pubbliche nei confronti dei suoi possedimenti, e cioè possedimenti, nemmeno possedimenti, cioè loro li sentono come possedimenti e quindi come legittimi proprietari, in verità dovrebbero non fare altro che amministrarlo. Quindi però insomma è ancora una cosa un po' in via di definizione, c'è una legge regionale che però non torna tanto, c'è un sacco di discussione sulla questione dei beni comuni, però forse effettivamente, ora questa opinione è strettamente personale, poi sì. Prego. Sì, volevo dire che abbiamo tentato comunque a gennaio di diciamo riaprire direttamente la stanzina senza chiedere nessun permesso, c'è stata richiusa, e poi la valutazione di appunto attuare questo percorso del bene comune che cioè, è avvenuta per diversi motivi, è avvenuta in modo da appunto tentare una via collaborativa con il comune, che almeno a parole si è mostrato tendenzialmente se non favorevole, comunque diciamo si sono un po' cagati sotto di base, okay. E quindi vedere se si sono cagati sotto abbastanza per accettare questo patto di collaborazione. Nel caso in cui non avvenga, senza dire troppo, ovviamente vedremo come agire. Certo. Sì, però effettivamente è anche un po' in un caso come... Ora io provo un po' a buttarla giù così, nel senso non conosco così bene il quartiere, però quando avete a che fare con tante famiglie, quindi con diciamo anche persone che non sono proprio nel circuito della sinistra militante fiorentina, e quindi quando avete aperto la Piazza Tasso, ho capito che c'è stato anche un po' di brusio sulla stanzina, c'è stato anche un po' di ma qui la porta si sfonda, non si sfonda, e quindi è anche per questo che voi avete virato su un concetto più, come si può dire, più accettato, più accettabile da un'opinione pubblica. Sì, diciamo in parte sicuramente, d'altra parte però ci tengo a sottolineare che questo brusio era venuto insomma fuori da certi soggetti vicino al Partito Democratico, mentre il resto delle persone, anche quando si fece un'altra assemblea pubblica sulla stanzina in Piazza Tasso, erano proprio i singoli, alcuni anche mai visti, che hanno detto proprio no, basta, c'entriamo, niente più permessi, così. Quindi diciamo che sappiamo che il quartiere e che le persone interessate alla stanzina sono pronte a riprendersela in ogni caso, ecco. Bene, e io una domandina me la volevo fare, perché riguardo però più all'occupazione di Piazza. Volete dire qualcos'altro sul carnevale? Avete qualcosa da... Ah sì, volevamo dire che il tema sarà sul clima, sull'ambiente, e ci sarà anche la partecipazione dell'Assemblea per la Piana e niente, quindi sì, festante. E quindi vi invitiamo tutti a partecipare, e se volete venire trovate un tema collegato all'ambiente o insomma questo. Bello, bello, tutti travestiti allora da ambientalisti o da ambiente o da mondo, che ne so. Ma questa, io qualche tempo fa ho visto era gennaio, quando ho visto sulla punta un evento che avete fatto al CPA, un autofinanziamento per un audiolab. Sì, sì. Quindi ecco, dai, su, diteci un po' che sta succedendo in Leone su questa faccenda, che è molto molto molto interessante. Buonasera a tutti intanto. Allora sì, diciamo l'idea dell'Audiolab ci è venuta verso dicembre, e principalmente per il motivo che il nostro spazio sociale è principalmente vissuto da ragazzi e ragazze giovani, quindi liceali, universitari, che sono molto vicini anche alla cultura hip hop, alla cultura in generale rap e trap anche, e quindi aprire uno spazio gratuito aperto a tutte le ragazze e tutti i ragazzi del quartiere, ma non solo, che hanno comunque la voglia e la necessità di fare musica e non la possono fare per via comunque dei costi molto elevati dei producer, oppure semplicemente non hanno un posto dove registrare. E per questo motivo appunto l'11 febbraio, se non sbaglio, abbiamo fatto questa serata al CPA con presenti il primo nucleo di ragazze e ragazzi con cui abbiamo iniziato questo progetto, che sono gli Under G, un gruppo rap dell'Isolotto di Gavinana, e Mars per Vintro, sono due ragazzi molto bravi in gamba, e costruiremo questo spazio all'interno proprio del primo piano dell'occupazione, dove adesso c'è appunto una stanza che verrà rimessa a posto per l'occasione, e grazie proprio all'autofinanziamento fatto al CPA possiamo pensare di fare una cosa molto fatta molto bene, anche a livello materiale, quindi di insomma scheda audio e varie robe. E magari piazzarci anche una regia del Wombat, questo lo dico io. Questo sì, sì, sarebbe bello, vediamo un po' poi come farla. Questo è esatto. Hai buttato un amo, vabbè, buttato ci sta, lì, ci registrato, ci è già sta. Diffuso sì, nell'etere, quindi non lo potete più riprendere. Lo sa già anche il nostro... Lo sa già anche il nostro ascoltatore fantasma di Gossino. Sì, esatto, guarda, anche grazie che ci sei sempre, sapete, ascoltatore di Gossino fantasma. Ci ascolta. Ma come... No, avete già fatto concerti rap, immagino, un po' in... Come vi ponete di fronte ai contenuti che... sessisti o razzisti, un po' tipici dei pezzi trap, per esempio? Allora, ovviamente la prima cosa che ci siamo detti anche con i ragazzi che non fanno parte dell'occupazione è che... è un progetto dentro uno spazio occupato, che quindi è libero da determinate dinamiche quali il razzismo, il sessismo, l'omofobia, il fascismo, per cui assolutamente saranno dei contenuti da non poter portare e utilizzare all'interno dell'Audiolab. Allo stesso modo penso anche che tanti ragazzi e ragazze che fino a pochi anni fa di base uscivano per le strade dei vari quartieri, appunto come può essere Gavinana, come San Frediano, bisogna essere particolarmente bravi a parlare con loro di determinate tematiche, perché sono ragazzi giovani, non sono persone malvagie, non sono persone cattive, e quindi gli va spiegato il motivo per cui noi non vogliamo determinati atteggiamenti, determinate robe nella musica, perché la musica deve, diciamo, portare dei messaggi positivi o comunque di rivendicazione sociale, di lotta, di tante cose, ma assolutamente sono quei contenuti non vanno assolutamente portati, perché non aggiungono niente, anzi, tolgono. Sì, ora, questa cosa secondo me è un tema un po' ingarbugliato, Fra l'altro l'ospite dopo di voi è questo ragazzo che ha scritto questo libro, Trap, storie distopiche di un futuro assente, e lui la mette un po' sotto un punto di vista che io condivido abbastanza. Poi magari lo ascoltiamo insieme, però fondamentalmente lui vede nella trap una forma di espressione, no? Quindi, e quindi non si può neanche troppo stare, secondo lui, non si può neanche stare troppo a puntualizzare sui concetti che ci sono sotto, perché sono abbastanza poi, tendenzialmente sono abbastanza diversi da quello che viene espresso. E magari vengono utilizzati dei termini che a orecchi nostri, miei, ma a miei soprattutto... mi ci metto per primo, magari possono risultare sessisti, mentre poi in verità, se si va a vedere il contesto dal quale escono, sono dei termini che sono talmente stati sdoganati che a volte magari non contengono più neanche quelle insomma, no, è un discorso molto, molto spinoso, concordiamo, cioè insomma, particolare. Penso, chiaramente noi non vogliamo erigerci a censori ultimi dell'arte d'espressione, anzi io penso che chiunque verrà a registrare nell'Audiolabs, cioè, dovrà essere libero di esprimere la propria creatività. Io e noi anche pensiamo che però determinati concetti depotenzino invece il messaggio forte che la cultura rap hip hop può avere nei confronti dei giovani, delle giovani generazioni. In particolare fare dei contenuti, ok, portare dei contenuti molto, molto buoni, come per esempio possono fare tanti ragazzi, no? tanti ragazzi e ragazze di Firenze, non solo, e utilizzare delle espressioni un po' contraddittorie non, per loro non è necessario, perché è evidente che hanno qualcosa da dire e l'hanno dimostrato e lo dimostrano facendo uscire i pezzi e tutto. Quindi cercare di, io almeno con i ragazzi della mia cricca, che sono l'Under G, ho portato avanti questo tipo di ragionamento, cioè voi avete tante cose di cui parlare, questa roba in realtà è roba che non vi appartiene, quello, cioè lo spaccio, l'idea del gangster, del gangster, sì, cattivo, che sono cose, no, che sono più ricondotte all'origine della trap, dell'hip hop, e poi è un'origine veritiera, vengono fuori da un disagio sociale dato da scelte politiche, urbanistiche e via discorrendo nelle grandi città americane. Però effettivamente sì, è come dici te. Ma avete un giorno di apertura oppure... Ancora il progetto ci stiamo un po' lavorando, siamo ancora agli inizi. L'idea sarà quella di avere due giorni di apertura almeno, di cui un giorno lo spazio sarà a disposizione di tutte e tutti i rapper con dei producer, quindi che potranno utilizzare la stanza, mixare, masterizzare, fare quello che insomma che riescono a fare da soli. E in più stiamo lavorando con alcuni producer nostri amici, che saranno a disposizione un giorno alla settimana, probabilmente dalla mattina fino a inizio sera, insomma ora vi definiremo meglio, per poi poter registrare. Pensiamo di gestire lo spazio con degli appuntamenti, quindi sicuramente uscirà una pagina social, dei contatti a cui poi potersi rivolgere per poter venire a registrare nello spazio, che saranno direttamente gestite da noi ma anche dai producer, così che insomma tu ti puoi mettere direttamente d'accordo con chi ti registra. Bene, bellissimo, bellissimo progetto, complimenti, e non vedo l'ora quasi. Poi grazie. Io davvero la regia ce la porto e poi fate Bobbis. Ma buono, ci salutiamo forse? Potete rimanere naturalmente, anzi secondo me rimanete proprio, ci ascoltiamo tutti insieme l'intervista non mi ricordo più come si chiama, User from Pistoia, che lo chiamiamo fra pochissimo. Intanto Shippuden ci manda prima. Esatto, cosa ci mandi? Stop the Thing. Stop the Thing di? Degli Agnostic Mountain Gospel Choir, che sono un gruppo... volevi sentire Toffolo te? No, vai con quello che il regista comanda. Ti metto Signorina... No, cosa ti metto? Quale vorrei? Di che cosa parla veramente una canzone? Quella l'hai già mandata, secondo me. Sì? No, non l'ho mandata io. No. Via. Try to get it again. I'll try. il la fuit. Si elle le fuit, il la suit. C'est ainsi, c'est inscrit, fait d'amour et de cris. Allora, stiamo stiamo dibattendo l'argomento spinoso tirato fuori poco fa. ma ci sarà sicuramente. Vabbè, comunque stiamo per chiamare user from Pistoia. Non perdetevi, l'appuntamento è questo venerdì. Ma lo stai chiamando col tuo mezzo potentissimo? No, intanto lo avverto. Allora, vi racconto cosa sta succedendo. Vai. C'è Briccobaldo che intanto sta premendo dei tasti. Ha il telefono Nokia 3310. E del lago nascosto che sta molto pronto. Oh, sì. Del lago. Il 3310, guarda, delle gioie. Ora per l'appunto mi è cascato in un secchio d'acqua. Da Cina arrivano soluzioni. Però perfetto 3310. Bene, dai, chiamiamo allora il nostro l'autore del libro Trap, storie distopiche di un futuro assente. Sentiamo subito in diretta? Subito in diretta, se tutto funziona. Sarà pronto? Chissà. Pronto? Sì, pronto, ciao, benvenuto su Radio Wombat. Grazie, grazie a tutti. Ci senti bene? Sì, sì, vi sento bene. Sei subito in diretta, non ti compromettere con frasi. No, non ti preoccupare, sono abituato, vivo in diretta oramai. Grande. Bene, allora stavamo appunto dicendo, diciamo presentando la giornata di venerdì dove sarai negli spazi della polveriera Spazio Comune a presentare questo libro Trap, storie distopiche di un futuro assente. Io gli ho dato un occhio, molto bello, fra l'altro mi è piaciuto. Perché l'hai scritto prima di tutto? Ma guarda, tutto parte da una parte di un'analisi che avevo fatto come tesi universitaria al Conservatorio di Firenze, tra l'altro. E diciamo che mi ero appassionato alla parte dell'avanguardia pop, intese avanguardia proprio perché gliela dovevo vendere così al Conservatorio, in realtà sono soltanto fenomeni giovanili, e quindi mi ero buttato sulla parte della trap, da lì mi sono appassionato e mi hanno contattato poi quelli dell'agenzia proponendo la cosa e ovviamente io ho risposto assolutamente di sì. Quindi diciamo questo è stato il quadro generale. Agenzia, ricordiamo, perché il libro è pubblicato da Agenzia X. Agenzia X, sì, Agenzia X, che insomma è un punto abbastanza fisso a Milano per trattare di questi argomenti, già da oramai credo da un paio di decine d'anni, e derivano da anche varie altre realtà editoriali milanesi che negli anni 80 e 90 insomma si occupavano sempre di controculture giovanili e voci decenti sociali, quindi appena ci stava proposto ovviamente ho detto di sì, quindi diciamo, questa è stata la base generale. Allora, prima che Briccobaldo ti faccia le domande serie, lui che ha letto il libro è molto più preparato di me, io ti volevo chiedere ma la differenza fra la trap e l'hip hop, che sembrano far parte di una cultura simile eppure anche diversa, ce le sapresti? Ma tratteggiare? Guarda, cioè di base già quando parliamo di pop parliamo di una cultura che è già ben definita e che già può essere generalmente storicizzata, e già possiamo dire che quando parliamo di pop quindi dobbiamo parlare non soltanto di un tipo di musica che è veramente molto versatile e poco limitante, ma parliamo anche dell'arte graffitismo, del DJing, insomma di varie altre cose, della danza. Quando parliamo di trap invece parliamo esclusivamente, secondo me, oramai più di un fenomeno musicale indefinito per ora, che porta con sé non un grande bagaglio culturale come poteva essere quello dell'hip hop, però porta con sé semplicemente delle derive stilistiche particolari. Quindi diciamo una è un fenomeno musicale, l'altra è qualcosa di un pochino più, che è stato un pochino più, come posso dire, controculturale per certi aspetti e fenomenologico per altri. In poche parole, la trap per ora è un fenomeno, l'hip hop è qualcosa di culturale già affermato. Ecco, diciamo questo. Ma sei stato molto chiaro, infatti. Ma e queste linee tendenziali, almeno io penso, mi sembra di aver capito molto bene quello che dici. Infatti, grazie. No, grazie a te. Invece, per essermi perso. Io, da profano che nulla chiappa, capisco che si parla di una tendenza, e allora ti vorrei chiedere ancora quali sono forse queste linee tendenziali comuni che si possono ravvisare. Sono tematiche, sono innanzitutto... Sì, cioè, diciamo che generalmente ci sono le derive che ha preso il genere, quindi che intendo veramente più come fenomeno, perché secondo me oramai non ha più senso dire questa è trap e questa no, perché è come dire questa è techno e questa no, cioè è talmente indefinibile, quindi non si può ben classificare. Diciamo che però ovviamente ci sono dei tratti e delle linee comuni che molto spesso vanno verso robe anche un pochino non troppo ottimiste, ecco, diciamo in questa maniera, ricordano anche robe un pochino più negative, sempre con questi suoni molto ripetitivi, ipnotici, con delle basi sempre 808 compresse a palla, insomma diciamo che il tratto distintivo, secondo me, isolando anche magari la parte testuale della voce, è un'atmosfera un po' negativa, un po' tetra, però comunque sia pur sempre ballabile, cosa che magari quel che era diventato l'hip hop poi dopo le sue prime manifestazioni era un pochino meno rispetto a quella adesso la trap, ecco. Diciamo, questo è un quadro. Ecco, fra l'altro tu parti proprio dall'hip hop per lo spiegare, sì, il fenomeno trap, quindi parti dalle sue origini, sì, nel Bronx. Veramente a me ha colpito un po' il punto di partenza, che è quello dei grandi interventi urbanistici e sociali nelle città, sì, dell'America del Sud fondamentalmente. Cioè, in verità, sì, no, nel pop si parla del Bronx, poi del sud dell'America del Nord, del sud dell'America del Nord, esatto, per quanto riguarda, esatto, la trap, poi si parte da Atlanta. Fai un'altra grossa, sì, distinzione, che è un po' anzi più distinzione fra millennials, post millennials e generazione digitale e poi successivamente la generazione invece virtuale. Spiegaci un po', sì, queste barriere, che cosa rappresentano. Sì, sì, sì. Ma guarda, ovviamente sono barriere che possono essere tranquillamente infrante anche per i discorsi di categorizzazione che si diceva prima tra hip hop, trap e robe, perché oramai viviamo una società talmente fluida che quindi ci sta magari limitare da una parte o un'altra, però nel mezzo c'è tanta roba, ecco, diciamo in questa maniera. Quindi magari se ci sta a limitare i millennial come quella digitale e il post millennial come quella virtuale, da un punto di vista magari carino, anche storiografico, però poi nel mezzo tra post millennials e millennials e quindi tra digitale e virtuale ce n'è tante di cose. Ho fatto questa suddivisione perché ovviamente chi è nato come me una limitazione millennials, quindi diciamo anni 90 pieni, è nato in un periodo storico in cui già il digitale, già quando si era più piccoli, era a portata di mano. Adesso invece, quando già siamo più piccoli, quindi la parte dei post millennials hanno a portata di mano il virtuale, ecco, diciamo in questa maniera. Noi digitale ci si giocava con i videogiochi, i computer e varie altre cose. Il virtuale è lo step successivo, se vogliamo intendere in questa maniera, e quindi ci rifacciamo all'internet. E quindi è una mera questione di strumenti, così come succede, come è successo, sì, nell'arco, sì, della storia della musica. Assolutamente di strumenti, sì, sì, assolutamente. E infatti è una cosa fondamentale questo. Infatti il mio approccio parte sempre da delle competenze musicali, quindi collegamenti strumenti utilizzabili sia dal punto di vista musicale sia che poi si rispecchiano anche la stessa vita normale, è una cosa che mi interessa molto, ecco, quindi ci sta. E fra l'altro nel libro poi arrivi alla scena italiana, spieghi anche un po' la differenza, sì, fra la scena capitolina e quella milanese, sono, sì, quelle due principali, sì, sì. Quello che ti volevo chiedere, ma la trap italiana si può considerare made in Italy oppure un'imitazione, prettamente un'imitazione della controcultura USA? Parte ovviamente tutto da un'imitazione, però è un'imitazione condivisa e sulla quale uno poi, cioè nel senso, tutte le controculture pop da gli anni 60 in avanti, poi sono state un focolare da una parte che ha sprigionato un'influenza che poi si è dimostrata mondiale. La stessa è stata fatta con la trap, dove focolare magari Atlanta, il sud degli Stati Uniti, che poi dopo negli anni sono riversate in tutto il mondo influenzandolo, e diciamo sì, è un made in Italy che non è al 100% made in Italy, ha un po' una come posso dire, come se io prendo del legno dall'America e ci costruisco un violino con una formula che si eredita da 300-400 anni qui in Italia, per dire, non so se... Ma forse anche da 600 se penso al pomodoro e alla pizza o cose... Capito, esattamente, caffè, come se noi ci siamo presi il pomodoro e ci si è fatto la pizza, ma possiamo... Made in Italy. Però, ad esempio, nel caso della trap... Cioè, si può parlare di controcultura in un paese come l'Italia, dove si è visto l'esplosione principalmente dovuta a dei produttori che poi hanno riversato sui social media questi contenuti? Guarda, questa è una delle domande che anch'io, diciamo, con tutta questa mia ricerca, questo focus è iniziato anche proprio per rispondermi a queste domande. Diciamo, come tipo di controcultura, per ora io non vedo troppo ondate per l'appunto ben definite da un punto di vista culturale, come poteva essere per l'appunto all'epoca l'hip hop. Però all'epoca l'hip hop, già quando era esploso, era già una controcultura. In questo caso è una degradazione di quella controcultura che poi si è convertita in altro. Quindi io spero che questa poi le nuove generazioni la trasformino realmente in una controcultura, perché per ora è una controcultura solamente di atteggiamenti. Quindi si parla veramente di in più una sorta di atteggiamenti, quindi io faccio parte di questa generazione, allora quindi sto magari le mie campagne sono molto più focus su social network, quindi c'è questa diciamo dalla parte più sociale, fisica, a quella più virtuale. Faccio parte di questa generazione, quindi non penso al futuro, mi drogo, mi faccio le canne di qua di là, insomma, quindi diciamo che può essere intesa in quanto controcultura da un certo punto di vista anche così, magari anche dal punto di vista dei ragazzi, che non gli frega più un cazzo di frequentare certi luoghi di incontro, ma gli interessa stare al telefono, boh, capito? È una controcultura un po' degenerativa. Però questo si vedrà, secondo me, fra una decina d'anni si farà il punto della situazione. Certo. Quindi per ora per me non è una, cioè, è una controcultura ma degenerativa per ora. E non ben chiara, quindi cioè, non si può neanche dire come magari rave, controcultura, riappropriazione degli spazi, tematica del free party, la tematica della raccolta di qualsiasi tipo di genderificazione, stile, robe, punk che vanno a ballare con i poppettari, robe del genere. Quindi diciamo che già qualcosa è ben definita, quando fa le controculture trap uno cioè, beh, ma forse anche so perché in effetti manca... Non so che valori mettere sul piatto, ecco. Diciamo che è degenerativo in quel senso lì, che si sta raccontando una crisi moderna, quindi è controculturale in quel senso. È più una... io lo vedo più come delle varie richieste d'aiuto. E vediamo se queste richieste di aiuto per appunto le nuove generazioni le plasmano in qualcosa di concreto che fa parte di loro. Sì. Quindi vediamo un po'. Infatti forse quello che è mancato, che manca, voglio dire, è il tempo per trovare delle linee tendenziali che si affermino rispetto ad altre o che di diverse vengano proposte. E infatti a tal... è difficile, cioè uno se ci pensa infatti dice che valori altri posso portare avanti se fino adesso tanto era... venivano portati avanti determinati valori, non mi sembra che si sia raggiunto un bel punto. Quindi dice uno fa un po' il punto della situazione e dice che me frega, oramai basta valori, basta contenuti, andiamo avanti, seguiamo il flusso. Io vedo più una cosa del genere. Qui con noi c'è qua in studio, ci sono anche due compagni di un'occupazione di Firenze, uno spazio sociale, l'occupazione di Via del Leone, che si stanno muovendo in un modo un po' inverso rispetto a quello che dicevi, cioè la rinuncia a spazi di aggregazione sociale rispetto all'alienazione di uno schermo e così via. E infatti stanno aprendo in questi giorni, è stato fatto da poco un autofinanziamento, un audiolab, perché gran parte dei frequentatori del loro spazio frequentano e praticano hip hop e trap, e quindi questo audiolab è finalizzato anche a incontrarli, a registrare le loro cose e a dargli... Infatti la domanda era, fanno bene questi compagni che fra l'altro sono qua, e se hanno voglia di intervenire lascio anche volentieri il microfono. A voglia. Poi io sono un chiacchierino, visto, se vuoi mi dare un input e inizio a chiacchierare. Se dici che non facciamo bene, ti sentiamo. No, però aspetta, guarda, se dici che non facciamo bene, ti sentiamo. No, anche più, no. Sto scherzando. Ma io, guarda, io sono una persona abbastanza yes man, quindi nel senso sono per il fare. Poi se uno fa bene o male, a me, cioè, l'importante è fare, soprattutto in una città come Firenze, che ultimamente, diciamo, che di aria di fare se ne respira poca in giro, e quando c'è la gente storge sempre il naso, e proprio una città come questa, qualsiasi tipo di mettersi avanti, soprattutto magari crea un laboratorio del genere, che io ho presente anche di l'occupazione, quella vicino a Piazza Tasso, sì, no? Sì, sì. Quindi c'è anche una l'idea è un po' quella, abbastanza centrale. Sì, l'idea è un po' quella, anche perché comunque c'è da dire che a Firenze nell'ultimo anno sta rifiorendo una scena hip hop, rap, anzi parliamo più di rap, che comunque insomma era un po' sparita o comunque molto tornata di nicchia. Invece adesso, grazie anche alle giovani generazioni, come dici tu, sta un po' rifiorendo. Io sono molto d'accordo con quello che hai detto fino ad ora. L'unica cosa, io sono molto, molto un patito della trap francese, diciamo, avendo studiato anche il francese, quindi lo capisco. E lì, per esempio, la controcultura secondo me è molto più visibile che qua, anche perché innanzitutto proprio si parla di riscatto dei quartieri popolari, quindi di persone che non hanno assolutamente niente. E tra l'altro c'è stato in Francia, in particolare, secondo me per il fenomeno della trap è stato molto particolare, il fenomeno dei gilets jaunes, che infatti tant'è vero che tantissimi trapper francesi, anche non militanti, anche non compagni, fanno canzoni su moti di rivolta come può essere quello dei gilets jaunes. Quindi secondo me punto di vista anche c'è la rivolta che nasce lì, poi influenza anche le giovani generazioni. Però infatti io supporto un sacco anche l'ambiente francese, anche per questo non mi garba molto le note che vanno a toccare, mi garba molto la lingua, ma mi garba meno il loro stile di produzioni, quindi non mi ci sono infognato più di tanto per quello, e sono un pochino più ho i miei gusti strani, ma al di là dello, ovviamente ho visto che c'è un ambiente strafigo, e soprattutto mi garba tutto il fatto che tutte le comunità africane grosse si sono attivate anche a favore dell'ambiente, un sacco di comunità, ho visto tunisine in Francia, vanno parecchio forti, e anche quello a me interessa più quel lato lì rispetto che una politicizzazione attiva nella musica, perché già nel momento in cui io metto contenuti sociali e vado a riscattare per l'appunto la socialità, la propria situazione economica eccetera, già per me quello è fare politica. Certo. No, ma infatti non è puntato a questo, giusto? Questo è giusto per fare una piccola parentesina che mi ha dato quel lato lì, ma al di là di quello pieno support infatti per la situazione francese, però in Italia bisogna trovare anche noi il nostro, perché i francesi sono quelli che tagliano la testa del re, capito? Chiaro. In Italia non si è mai tagliato la testa del re, purtroppo. Certo. Anzi, diciamo che ci siamo fatti sempre un po' abbindolare. Quindi il nostro, secondo me, c'è ancora un pochino da calibrarlo. Sì. Però le nuove generazioni, ma in generale, gli ambienti, se uno deve buttarsi, è bene lo faccio adesso. Quindi supporto anche per il laboratorio. Ecco, ma tra l'altro venerdì venite, tra l'altro no, sei anche invitati. Sì, venerdì, no, no, io vengo, veniamo volentieri a parlare. Bravo, bravo. No, fra l'altro, bravo. Nel tuo libro, te a un certo punto fai tutto un discorso sugli spazi sociali, sui centri sociali, e li, sì. Li dipingi, sì, un, sì, po' come luoghi che in passato sono riusciti, sono stati fondamentali per la produzione, per la diffusione, certo, di determinati generi musicali, e fai. Porta all'attenzione che invece questa cosa al giorno di oggi nei riguardi della trap non succede. No, non viene fatto, no, no, assolutamente. Cioè, ma diciamo che purtroppo l'idea di centro sociale, secondo me, non è stata, cioè, più che l'idea, la struttura come centro sociale purtroppo in Italia è stata repressa fin dagli anni 90, proprio perché avevamo visto che negli anni 90 hanno fatto il panico da un punto di vista proprio di importazione musicale, culturale, determinate approcci. Insomma, sempre faccio riferimento anche, mi sembra, al libro, vabbè, c'erano forse il Link a Bologna, che è abbastanza quello classico, negli anni 90 ha tirato fuori diverse robe interessanti che tuttora sono mega attuali. Ma al di là di questo discorso qui, quello di, secondo me, con una grossa repressione che c'è stata, non c'è stato un gap generazionale per cui la struttura, la figura del centro sociale italiano purtroppo è stata molto più messa da parte, ma non perché non è una cosa giusta o sbagliata, ma perché semplicemente è stata repressa. I ragazzi giovani magari avevano altri cazzi, altri pensieri, non gli andati usciti di casa, non lo so, sono una sega. Fatto sta, cioè, il problema è che adesso ce n'è sicuramente molti meno punti fissi, centri sociali generali. Vabbè, che in generale c'è anche una difficoltà, si aprono la trappa ancora meno, c'è anche una difficoltà da parte di questi spazi nell'accogliere uno stile che anche tu lo definisci spesso fallocentrico, spesso con contenuti sessisti, razzisti, con una spinta all'utilizzo delle sostanze, cioè, quindi però guarda, ne parlavamo poco fa con i compagni, ci si può lavorare, sì. Ne parlavamo poco fa con i compagni dell'occupazione di Via del Leone, e si stava un po' discutendo sul fatto, ma questa è un'espressione di un qualcosa che poi realmente c'è sotto, oppure è solamente una questione di immagine, e che valore si dà a queste due cose, quale facciamo prevalere, cioè. Questo è un po' un discorso, cioè, te dici di quanto di quello viene propagandato a livello di non valori nella trap e poi corrisponde alla verità, cioè, nel senso, sì. Questo è un domandone, perché in generale, oddio, sono sempre una questione di limiti, e sono sempre questione di persone che lo fanno, perché c'è gente come XXXTentacion, che è stata forse una icona più forte degli ultimi 3-4 anni in tutto il mondo, si sa perfettamente tutto quanto le sue violenze domestiche poi sono state riportate anche all'interno dei testi che poi l'hanno reso un po' famoso. Quindi in un caso del genere uno dice effettivamente è così. Bisogna capire se questo esserlo, non so, magari è positivo il fatto che lo è in maniera esposta, cioè, nel senso, dice io sono così e faccio così, rispetto a magari qualsiasi altro genere più precedente che in realtà dice di non essere così, ma poi in realtà è sempre stronzo, fallocentrico, maschilista, bianco di merda, come può essere una struttura qualsiasi, come, non lo so, dal rock and roll in avanti, per intendersi. Questo è un discorso veramente ampio, dove anche parlarne così secondo me è veramente riduttivo, perché uno dovrebbe fare veramente un punto di discorso abbastanza grosso. Se non altro, sicuramente il nostro tipo di trappare è sicuramente molto più cazzeggio rispetto a quello statunitense, soprattutto nei primi tempi. Magari i ragazzi che parlavano di spacciare crack, che sparavano a vicini, magari effettivamente spacciavano crack e sparavano a vicini. In Italia è stata riportata in maniera molto più, lo dico perché fa figo, ma nello stesso tempo lo dico in un modo che è anche figo. Quindi okay, diciamo che il vocabolario si è ridotto a quei termini lì, però quei termini lì vengono utilizzati più come componenti stesse della forma generale a cui si vuole dare la traccia. Cioè, nel senso, il famoso bici di qua, bici di là, magari oramai sono diventati più diversi che altro. Io penso alla Dark Polo, che i primi anni, cioè il primo anno, che secondo me hanno fatto il 90% della loro carriera da un punto di vista stilistico, anche loro l'hanno importato in maniera molto maschilista, senso, disubbidiente, maleducato e vari. Però se uno si va a leggere testa a modo e si va a vedere anche loro, i personaggi sono creati, è molto più un personaggio scialone che in realtà lo dice perché vuole fare un po' lo swag, vuole fare un po' il Fendi e poi va a fanculo, capito? Poi, fra l'altro, cioè, non è che poi in realtà va a sparare vicini o a picchiare le ragazze. Anzi, fra l'altro, ho capito da quello che scrivi che lo stile italiano è anche abbastanza ironico nei confronti di tutti i temi che affronta, quindi poi ricostruisce e li distrugge. Una percentuale ha preso l'approccio ironico, quello senz'altro, cioè della scena romana. Esempi, io spesso dico la Garage Gang con Pippo Solo sono dei fenomeni e sono venuti fuori tutto grazie a questo vario fenomeno generale, e sono al 100% ironici. Ma infatti escano anche dalle solite tematiche, sono per appunto quello che si diceva prima. Infatti è lì che poi secondo me c'è la cosa interessante. Diciamo, noi bisogna dargli l'inclinazione giusta, tutto sta lì. Cioè, se te mi parli sempre in termini veramente brutti e maleducati, se me lo fai in maniera tale veramente non dai più senso al tuo contenuto, ma dai più senso alla forma, quindi ti viene fuori una roba che sei più te che verseggi rispetto a te che dici cose e ti racconti cosa hai fatto il giorno, boh, ci può anche stare. Se ovviamente lo dici e poi lo fai, sei una testa di cazzo, quello sai, fa parte anche della società di oggi, certo. Purtroppo ce ne sono tante teste di cazzo, almeno loro si raccontano e sono delle teste di cazzo. Senti, senti. Un'ultima cosa te la volevo chiedere. Te, il sottotitolo del tuo libro è Storie distopiche di un futuro assente, e quindi ti volevo chiedere che cosa vuoi dire con questo sottotitolo, e poi qual è il futuro della trap. Qual è il? Cosa ci dobbiamo aspettare dalla trap? Qual è il futuro, okay. L'evoluzione? Ma allora, guarda, il titolo è un po' ovviamente uno scioglilingua, cioè nel senso lì è nato un gonfiaggine che tornava bene la frase, mi garba a mettere quelle parole insieme, quindi ci sta. Ovviamente poi queste parole sono state scelte perché storie distopiche, perché volevo mettere all'inizio anche storielle, proprio perché per quello che si dice adesso, oramai secondo me i testi nella trap o in generale i testi nel fenomeno trap è sempre stata una cosa che può essere considerata come no, quindi proprio per quello distopiche, proprio perché di un futuro negativo, per tutta la parte contestuale si diceva prima negativa, quindi si racconta storie di un ipotetico futuro negativo che però non esiste neanche, è questo il senso del titolo. Mentre per quanto riguarda la fine, cioè il continuum della trap, io, se si vuole essere positivi, fiduciosi come lo voglio essere io, bisogna che i ragazzi che adesso vanno in terza, quarta, quinta superiore si rimbocchino un po' le maniche e facciano roba e trasformano tutta questa gran baradam in una sorta di, per l'appunto, controcultura, come si poteva dire prima, ma non per forza, o comunque sia un movimento, qualcosa che da una cosa si ottiene un'altra. Se si vuole essere positivi, quindi c'è una gavetta di passaggio a cui diciamo attestare questo gran boom di nuove produzioni, nonostante le varie icone più grosse che vanno tuttora e che stanno andando, comunque non hanno un grande rinnovamento da un punto di vista di quello che stanno facendo. Da una parte, se si vuole essere negativi, si sa che dopo un grande picco c'è un grande decadimento, e che quindi ci sta anche da un anno a un altro poi di questo fenomeno, o non se ne saprà più giusto, o andremo verso altre idee musicali. Quello che è certo è che, come è stato al tempo magari non il rock, magari non il pop, forse un po' meno di, diciamo come è stato il tempo, determinato un genere musicale che ha influenzato poi tutto l'avvenire, e lo stesso succederà con la trap, influenzerà tutto l'avvenire musicale da qui in avanti, perché l'ha talmente saturato in questi momenti in cui stiamo vivendo adesso, che è logico che i ragazzi faranno musica, i ragazzi e le ragazze che faranno musica da qui in avanti avranno un orecchio che porta anche a quelle sonorità lì, quindi sicuramente influenzerà da un punto di vista musicale e produttivo, speriamo influenzi anche da un punto di vista culturale, cosa che, ripeto, secondo me è da affidare alle nuove generazioni, ovviamente integrate dalle vecchie, per vecchie e nuove si intende gente nata negli anni 90 con quelle del 2000, quindi vecchie e nuove per modo di dire, però oramai siamo in tempi talmente veloci. Certo. Si può ragionare questi mesi. Bene, dai, allora. Scusa se mi prolungo, scusate, però cioè, ci rifletto mentre, capito, cioè, cerco di rifletterci nel momento in cui mi chiedono cose, perché insomma su domande mi faccio anch'io. Senti, quindi, allora rimandiamo alla presentazione vera e propria, quindi venerdì alle ore 18:30 presso gli spazi della Polveriera. Vi sarà poi naturalmente un aperitivo, una cena, e poi un dopo cena invece musicato, cioè, con un open mic, fra l'altro, quindi esatto. Sarà la possibilità di intervenire anche trappando. Certo. Dai, salutiamo anche tutti gli altri ragazzi. Bene, ringraziamo per la partecipazione. Ci vediamo venerdì. Scusa, ma un perfetto pezzo ce lo consigli? A bruciapelo. Un pezzo? Significativo, non lo so. A me va bene anche non significativo, in verità, questa volta. A piacere. Vabbè, ma italiano allora. Sì, dai. Allora metti Tommy Toxic strano. Tommy scritto Tommy con la Y, con la y Toxic piece, con la T-O-X-X-I-C, Tommyx. Sì, no, l'ha salvato T-O-X. Il suggerimento di YouTube. Qua. Perfetto. Buono, fatto. Algoritmo. Allora vi lasciamo con questo e a venerdì per proseguire ancora su la trap. Su sto filone. Dai, grazie mille ragazzi. Ciao. E quindi strano, Tommy. Cosa dalle amici, ma tutti mi guardano, cerco cosa dalle amici, ma tutti mi guardano strano, cerco cosa dalle amici, ma tutti mi guardano. Tommy G, il mago, Yangoia del tablano, scopro modi di volare, volo in alto e dopo casco, non allaccio il casco, sto Ralph al contrario, sono andato a Cambridge, ma mi hanno cacciato. Cosa ne sanno questi di che si mangia, di cosa il piatto di un altro? Cosa ne sanno questi di cosa un piatto violente cotto a dettaglio? Cosa ne sanno questi di che si tratta, di cosa è fatta una pasta? Cosa ne sanno questi di cosa un patto fatto col sangue di un altro? Tommy gel mago, goia del tablano, tengo io stai zitta, poi dammi la mano. Non darmi la mano, viaggi temporali, te dammi la mano, ti insegna a volare. Detto le rime generale, franco vi porto lo stile che manca per farvi girare di nuovo coi dato al 90. Incalzi le sandali, incalzi le slow, spazio lo deformo, c'ho orologi molli, guarda come vado in si bemolle, guarda che mi evolvo in molte, sfogo sulla folla e non ho gli estintori, no che non risparmio nessuno, so giusto educato, vi insegniamo il bonto, ho preciso il bersaglio, un mirino sul palmo, non apro il fuoco, non sparo a casaccio, non crediamo al fato, non credo sia un caso, te dammi il Picasso, non ne riparliamo, non cambio casacca, quando esce sta roba, te cambi casacca, o come ti comporti, non credo sei donna, non passo il controllo, non vedo un futuro, odiare questo mondo, gli a 9000 giro tondo, se tolgono internet, va al manicomio, cerco satelli di amici, ma tutti mi guardano, cerco satelli di amici, ma tutti mi guardano strano, cerco satelli di amici, ma tutti mi guardano, cerco satelli di amici, ma tutti mi guardano strano. Sei strano, lo dicono gli altri, lo giuro, sto fuoco là dentro che brucia e poi fumo un incendio, si bagno, una gita l'ho fatta in cima all'Himalaya, sai che faccio iaia, pure ho la botta da fuori ed in tasca, pranzato da desco, compando il 50, puoi chiamarmi iaia, sai che faccio iaia, ho fatto trasferte coi Cardinals, te puoi chiamarmi il cardinale, sai che tagliamo tele con catane da tanca, sul drama chiamami Fontana, non alieno, il circo Mororfa, ammazziamo balene e teniamo le teste, sono a Bragadabba, giro coi cucchiai, la banda si scioglie, sono ninja pro gamba, combatto la noia di vivere, andando a passeggio con pecore e garga, scusa con mine vaganti, scusami con astronauti, scusa con Pacciani e Vanni, scusami coi palombari, scusa se non ti calcolo. Scusami se sono strano. Giri da Inese, giri di campo, si parla di noi pure se manco tanto. N'essere timido, n'essere strano, non darmi la mano, lo sai che non calcolo. Ho fatti i miei calcoli, calcola che da la calca che salo a calcare col gatto. Dammi la mano che ti porto in alto, non lascio cadere nemmeno 0-3. N'essere timido, n'essere strano, non lasciare gli altri, decide per te. Mi gioco la vita con un contromano, sono come Dexter, ho 100 magliette. Lavo soltanto, sì ma non le cambio, c'ho l'accento inglese, sono stato a Cambridge. Non essere strano che t'hanno cacciato, non essere strano che t'hanno cacciato. Cerco satelli di amici, ma tutti mi guardano, guardano, guardano. Cerco satelli di amici, ma tutti mi guardano strano. Cerco satelli di amici, ma tutti mi guardano, guardano, guardano. Cerco satelli di amici, ma tutti mi guardano strano. Cerco satelli di amici, ma tutti mi guardano, guardano, guardano, guardano. Cerco satelli di amici, ma tutti mi guardano strano. Cerco satelli di amici, ma tutti mi guardano strano, guardano, guardano. Cerco satelli di amici, ma tutti mi guardano strano. Bello, bello, bello, bello, bello. Dai, non male, non male. Viva la trap, forse. Forse viva la trap. Forse viva la trap. Esatto. Vabbè, vedremo, vedremo, dai. Ci sarà tempo di valutare. Intanto noi siamo in chiusura e quello che possiamo fare ancora è ricordarvi i vari contatti, ricordarvi che la trapunta va in onda ogni lunedì alle 16.30, però la potete ascoltare in replica il martedì alle 16.30, il giovedì alle 13. La rassegna 20 invece andrà a loop in Radio Wombat circa ogni 3 ore, quindi se volete che gli eventi siano caricati, siano letti nella rassegna eventi, vi raccomando di caricarli su lapunta.org. I nostri indirizzi sono sempre i soliti, quindi per la mail potete scrivere apposta wombat@insiberia.net. Abbiamo una pagina Facebook, ma è preferibile utilizzare la mail. Potete seguirci su Twitter, inoltre il blog è sempre il solito, wombat.noblogs.org. Naturalmente 13.59 onde medie o mediocri, che dir si voglia. Qui accanto a me è comparso Gaspa. Ciao. Ciao Gaspa. Ciao Gaspa, è un po' in chiusura, però Grippo, che si fa? Che si fa? Sulle note di Puto mandiamo un saluto. Dai, e un saluto da Radio Wombat. E ciao. A lunedì. Ciao belli. Sempre sulla trapunta. Wombat! Avere attenzione, precauzione e seguire le indicazioni dell'autorità sanitaria. Rimando Nardella, Non fa mai male. È il terrorismo psicologico. Ecco. È lo sciacallaggio che alcuni sciacalli fanno per trovare soltanto una scusa per l'odio. Per non venire a Firenze. No. Invece noi siamo vicini alla comunità cinese in questa battaglia comune. Si vede, c'hai la mascherina, Nardella. Niente. Niente paura. Oh, niente paura. Oh, grandi abbracci. Ciao bravo, Darione, bravo! Bravo Dario! 1, 2, 3, 4! Questo è live! La trapunta, la trapunta, la trapunta, la trapunta, la trapunta, la trapunta, la trapunta, la cosa succede giù in città? Ma chi lo sa? Ma chi lo sa, quel che di bello c'è in città, lo trovi sulla punta. La trapunta. Dai, come bello.